Confesso di essere stato un po' indisciplinato, non mi sono attenuto rigorosamente al programma, avrete forse notato, perlomeno chi è più preciso, e l'ho un po' rivoluzionato, per cui diciamo, quello che stiamo facendo corrisponde al programma della prossima volta e poi faremo il punto. Siamo portati avanti. No, mi sembrava prima importante condividere una mappa e poi dalla mappa andare a esplorare, perché forse rimane poi più organizzato nella memoria almeno qualcosa di cui abbiamo parlato insieme. Ma farei ancora un'ulteriore variante, perché ho parlato con persone durante l'intervallo che hanno detto: ma noi abbiamo figli grandi e allora parliamo anche un po' di loro. Nel senso che di questa mappa, non, lasciate pure le luci accese, tanto la spengo subito. Adesso esploriamo la dimensione ludica anche con gli adolescenti, d'accordo? E poi la prossima volta riprendiamo la mappa, la chiudiamo e andiamo sull'educazione sessuale, cioè come rispondere alle loro domande. Così diamo un po' di percorso. Allora, due parole ancora sui bambini, in modo semplice, ma se non sono chiaro su questo argomento che adesso tratterò per pochi minuti, intervenite fin quando non ci siamo chiariti, perché è un argomento che rischia di essere frainteso e se io lo spiego male è molto brutto che torniate a casa con un'idea confusa. Allora, i bimbi giocano anche con il nostro corpo, è un gioco bellissimo, come quello della nonna, no? Nella versione non dolorosa e non abusata della vita. C'è un problema però: quando giocano con il nostro corpo mandano segnali sessuali, nel senso che sono curiosi, si interessano al nostro corpo anche sessualmente e si misurano con noi sessualmente. Sempre per tenere un po' di storia di questo nostro lavoro con i bambini, io ho ringraziato la memoria di Freud perché ci ha riconsegnato la sessualità dei bambini, però forse ha fatto un errore importante, per limiti tecnici dell'epoca, non per altro. Ha usato per spiegare la sessualità dei bambini quella degli adulti. Tutte le sue letture, le sue metafore, le sue interpretazioni hanno come riferimento non la sessualità di piccoli, la sessualità di grandi che fanno cose nei piccoli, e questo ha portato un po' fuori strada, tant'è che adesso la psicanalisi la sta riformulando questa ipotesi. Allora, qui invece io proverei a darvi un'idea più semplice, forse anche più intuitiva. I bambini si rivolgono a noi con la loro sessualità, e lo fanno perché sono intimamente convinti che noi li riconosceremo nella loro sessualità, li apprezzeremo nella loro sessualità, daremo loro dei confini affinché sia vissuta bene e soprattutto non risponderemo con la nostra sessualità. Okay? Gli arriveranno soltanto amorevoli cure, tanto riconoscimento e un buon contenimento. In altre parole, il segnale sessuale di un bambino non è capace di accendere la nostra sessualità. Perché? Per una ragione che stiamo studiando, e su questo stiamo proprio facendo ricerca anche a Torino, e devo dire che questo gruppo di ricerca è apprezzato perché sta portando anche dei risultati nuovi. L'idea è molto semplice, provo a spiegarvela spostandoci in un altro mondo, e poi torniamo ai bambini. Immaginiamo che ci sia un uomo di 38 anni che ha il viso a pochi centimetri dal corpo nudo di una donna della sua età e precisamente dalla sua vulva. Questo corpo manda molti segnali sessuali estremamente potenti a quell'uomo. Ma quell'uomo non è attivato sessualmente perché è un ginecologo che sta visitando una sua paziente. Beh, sta succedendo una cosa strana, cioè un maschio sano di 38 anni, a pochi centimetri da una vulva di una donna attraente, si eccita sessualmente, non c'è scampo. Poi può comportarsi in modo adeguato, ma si eccita sessualmente. e nessuno sopporta di essere visitata da un ginecologo attivato sessualmente, perché è insostenibile la situazione. Mi spiego? Tutto va benissimo perché non c'è l'attivazione della sessualità, ed è molto strano che non ci sia l'attivazione della sessualità in una situazione così. Che cosa sta accadendo? Che un altro segnale prevale su quello sessuale, ed è il segnale: ho bisogno di te perché ti prenda cura di me. Ok? E questo meccanismo è perfetto, funziona in modo impeccabile se non c'è un disturbo nell'uno o nell'altro. Mi spiego? Principalmente nell'uomo che sta visitando quella donna. D'accordo? Assistiamo cioè all'inibizione di un modo di stare in relazione su un altro modo di stare in relazione. Il modo di stare in relazione, chiedendo aiuto, tecnicamente è chiamato attaccamento, perché descrive una modalità che è: stammi vicino, così se ho bisogno di te sono subito pronto a chiederti aiuto, ok? L'altro modo è la sessualità, e l'abbiamo visto. Questo succede in tante situazioni. Io adesso vi ho fatto l'esempio di una situazione molto precisa, molto forte, ma lo potete diffondere a tutte le situazioni di cura, dove c'è il contatto, per esempio, con il corpo, anche di persone attraenti, senza che si attivi la nostra sessualità. Torniamo ai bambini, stessa cosa. I bambini non devono neanche mandare un segnale di richiesta d'aiuto, perché sono un segnale vivente di attaccamento. Cioè, il fatto stesso che sono bambini, per come hanno il corpo, le fattezze, le loro movenze, sono già un... Ricordati che sono un bambino, sono fragile e ho sempre bisogno di te. Poi, quando devi entrare in azione, te lo segnalo. Questo segnale inibisce la nostra sessualità. È perfetto. Facciamo un esempio pratico. Io torno a casa, ormai cose di tanti anni fa, perché ho figlie più grandi, ma insomma io torno a casa e ricevo una telefonata da una moglie piena di buonsenso, che capisce quanto siano limitati i cervelli degli uomini. E dice: senti, tornerai a casa, tu non te ne accorgerai, però tua figlia ti farà vedere una gonnellina nuova. Questo è il problema, no? Un maschio normale che torna a casa dopo 10 ore di lavoro non ha neuroni disponibili per riconoscere una gonna di jeans diversa dalle altre 4 per una pens su. È ovvio, è normale, cioè non ci si può arrivare. Vabbè. Uomo avvisato, mezzo salvato, uno entra e lei sta carino. Vedi qualcosa di nuovo? Fammi capire. Sì, che vedo, ma come sei carina. E lei si sente riconosciuta, con un aiutino, ma questo non dice. Si sente riconosciuta nella sua sessualità. È una gonna? No, è una femmina che sta provando a vedere che effetto fa su un maschio sicuro, di quelli che non dovrebbero dar problemi. Mi spiego? Perché ci sarà riconoscimento, ma nessuna risposta sessuale. Poi allora la cosa diventa più intima, si fa prendere in braccio, si fa fare le coccole, no? E poi magari fa un gesto che è più spinto dal punto di vista sessuale, e voi gli dite: no, questo no, questo lo fa la mamma con papà, ok? Ah, va bene, e questo la protegge da se stessa, che non sa prendere le misure, in modo che rimanga sempre così, che papà manda solo segnali rassicuranti e amorevoli, ok? La scena finisce così, una scena minima di pochi istanti, ma è una scena di riconoscimento sessuale di un bambino. E tutto ha funzionato. Qualche altra volta invece le cose sono diverse. Niente di tutto questo, ma voi sentite di non poter stare in quel posto perché un uomo della vostra famiglia appoggia lo sguardo su di voi, non fa nulla, cioè nulla che si possa dire a un giudice. Però vi guarda come non si deve guardare una ragazza, una bambina. Mi spiego, è quello sguardo... è già uno sguardo abusante, mi spiego, vi tocca male. C'è un momento difficile in cui un papà non sa più come considerare le tette di sua figlia, no? Perché fino a un certo punto sono assolutamente una bimba che cresce e dopo diventa una donna. E molte figlie se la prendono e dicono: ma perché non mi vuoi più bene? È tutto da riprendere le misure, mi spiego, perché se no basta veramente un istante che sciupa tutto, no? E allora prudenza. Prudenza che viene vissuta come distanziamento, no? Vabbè, sono i piccoli problemi. Nella crescita poi ci si risistema, però deve essere tutto nitido, preciso, pulito. Non ci vuole molto, basta solo funzionare normalmente, cioè è più complicato dirlo e spiegarlo che no. Qualcuno non ce la fa perché è stato confuso, E qualcuno non ce la fa perché è stato sessualmente umiliato e si sente messo in allarme dalla sessualità dei bambini. E sono due linee, adesso non sto a farla lunga, insomma, di spiegazione sul perché qualcheduno non ha questa cosa che gli funziona naturalmente, cioè l'inibizione della sessualità da parte di un segnale molto semplice che è: io ho bisogno di te, tu ti devi prendere cura di me. Tutto a posto, tutto in ordine, ma se qualcosa non funziona proteggiamoci e proteggiamoli. Adesso vi dico la cosa difficile, io la dico in un modo che è suggestivo, ma non prendetela letteralmente come normalmente usiamo le parole per parlare del sesso. Se tutto questo è chiaro, e spero di essere stato netto in queste parole, allora resta vero che tutti i bambini, per essere felici nella vita, devono aver fatto l'amore con papà e mamma. Dove fare l'amore non c'entra niente col sesso. C'entra con l'unico modo con cui i bambini sanno dell'amore, che è incontrarsi nel corpo di un'altra persona e rendere l'amore un fatto. Non un pensiero, non una teoria, non una dichiarazione, ma un fatto. Solo in quell'incontro l'amore diventa noi, e noi diventiamo non oggetto dell'amore di qualcuno, ma soggetti d'amore. Noi diciamo: un bimbo è stato amato, è già bello. Ma un bimbo deve essere amato e amante nello stesso momento. E non pensate al sesso e alle strane interpretazioni. Quando uno dice a un bambino: tu sei il mio amore, dice già una cosa bella. Ma quando uno dice: tu sei l'amore con me e io sono l'amore con te, e questo non lo dice con le parole, ma lo dice perdendosi nei suoi occhi, allora questo ce lo portiamo per tutta la vita come la sicurezza, no? È dentro di noi, è scritta nella nostra carne. Solo se l'abbiamo fatto, se ce l'hanno detto, non basta. Non basta parlare d'amore ai bambini. Tra l'altro neanche agli adulti. Se voi gli dite l'amore, non ci credono. Ci credono quando poi l'amore diventa un fatto. Solo quello convince, ok? È il corpo. Vi ricordo un'altra storia di questo tipo, ovviamente posta a un altro livello. Ma per farsi conoscere, il Verbo si è fatto carne. E il Verbo può mandare conoscenza in qualunque modo, essendo il Verbo onnipotente, invece no. Si fa carne per essere conosciuto, viene ad abitare in mezzo a noi, mette le tende in mezzo a noi, sarebbe la traduzione, no? Quindi questo bisogno del Verbo che si fa carne per essere conosciuto lo troviamo in tutti gli abbracci per i nostri bambini. Anche noi siamo Verbo, siamo amore, ma questo amore soltanto se è fatto carne arriva a chi lo voleva conoscere, e se quell'amore è fatto di soggetti che si incontrano, anche se uno è grande e l'altro è un bimbo piccolissimo. Questo è un punto chiave che ci fa dire una frase forte, che tutti i bimbi fanno amore con papà e mamma, ovviamente dopo aver messo la cornice precisa che non si tratta di segnali sessuali reciproci, okay? Anzi, in quel caso non si tratta neanche di segnali sessuali da nessuna delle due parti, ma proprio dei segnali dell'amore in casa. Perché questa notizia? Perché poi ci ritorna quando invece faremo l'amore sessuale con un'altra persona, che non è più la mamma, non è più papà, non è più la nonna, ma abbiamo la memoria del fatto che l'amore lo si può sapere, e da sapore, è una variante del sapere, proprio dentro alle carezze. E così non saremo smarriti e spaventati quando dobbiamo incontrare qualcuno. Ma di questo parleremo poi la prossima. Con questo i bimbi sono a posto. Qualche volta ancora giocano tra di loro, la cosa gli piace, gli diverte, funziona. Proteggiamoli, perché ogni tanto in pronto soccorso arrivano bimbe con esito di giochi non tanto sensati, cioè arrivano bimbe con oggetti nella vagina, perché sono iperesploratrici o hanno maschi troppo intraprendenti, o altre bimbe troppo intraprendenti, tante volte lo fanno tra bambine, e allora se giocano diamogli le regole del gioco almeno, perché proibirlo servirebbe attivamente poco, nel senso che lo fanno in clandestinità. Se invece sanno prendersi cura del loro corpo mentre giocano, sono sicuramente più protetti. Sì, il gioco è quello. Ovviamente dovete sorvegliare l'estetica del gioco, no? Cioè deve essere un gioco che ha buona misura. Appena vedete che c'è qualcosa che non funziona, intervenite, interrompete. Mi spiego. Oppure decisamente non glielo lasciate fare se voi non lo reggete, perché un gioco che fa star male a noi è un gioco che fa male anche a loro. Se giocano ed esplorano va bene, non so, al mare è più facile perché sono già mezzi denudati, eccetera, no? In montagna si toglie tutto, insomma, è proprio molto, molto più evidente, molto più marcato, cioè, eccetera. Però Se stiamo bene tutti, ed è un gioco esplorativo, anche divertito, anche un po' malizioso, va bene. Se vedete che è fuori misura, fermate perché vanno in sofferenza. E poi devono essere solo tra pari, ma pari non vuol dire neanche tanto l'età, vuol dire le fasi della vita, bambini con bambini e non bambini con preadolescenti, che già viene fuori un pasticcio. Okay? E a quel punto fermate e proteggete. Assolutamente sempre così. Perché c'è il rischio di essere abusati da un fratello, di essere abusati da un cugino, di essere abusati da un compagno di scuola. E in quel caso non c'è a volte solo l'abuso, ma c'è proprio una violazione. Nel senso che sono giochi che i più grandi, ancora un po' da affinare nel loro modo sociale, mettono sotto costrizione i più piccoli. Okay? E quindi, no, questo proprio non lo consentite mai per nessuna ragione, perché rimane una traccia brutta nella sessualità. Okay? Tolte queste situazioni, fin quando voi la reggete, fin quando sembra armonica, cioè fatta con misura, è un'esperienza di gioco, penso. Il gioco del dottore, tutto sommato, è abbastanza diffuso nella storia. Adesso proviamo ad andare un po' più verso gli adolescenti, poi magari ci teniamo un po' di tempo per discuterne insieme. Vabbè, l'idea è poi abbastanza semplice, l'idea di raccordo è questa. I bambini fanno quasi tutto del sesso. Provate a vedere se lo ritrovate. I bambini giocano col proprio corpo, si masturbano. I bambini giocano col corpo degli altri, fanno sesso con gli altri, nella forma da bambini, sempre, è la stessa cosa che dico. I bambini creano legami tra di loro, e legami sessuati, di coppia. Pensate alle coppie di adulti, ma provate a separarne due quando vanno a mangiare in mensa all'asilo. È una tragedia, no? Cioè, vanno con la loro bambina, col loro bambino, mi spiego? Magari non dura tutto l'anno, però, insomma, sono momenti forti. I bambini si innamorano. Io mi ricordo una mia cotta spaventosa di quando avevo 4 anni, ed è una delle cose che mi ricordo di più, no? Di quel periodo della mia vita. Ho pochi ricordi, ma mi batte il cuore se penso a... Tra l'altro era una ragazza di 18 anni, quindi insomma, avevo speranza. Però, ero perso, avevo innamorato perso, insomma. Avremo qualche innamoramento, più o meno intenso, eccetera. I bambini amano, abbiamo appena finito di dirlo, e amano da soggetti, da protagonisti. E quindi ci sono un po' tutti gli elementi dell'amore. Però c'è una cosa da ricordare. Il cervello dei bimbi mette loro un limite perché li protegge da un rischio troppo grande. Il limite è fai pure tutte queste cose in parallelo, ma non cercare di metterle insieme tra di loro. Ok? Non viene di fare un gioco sessuale con la propria bambina. Mi spiego, con quella che fa coppia. Due cose. Il cervello fa fatica a montarle insieme, ok? L'unica novità è che c'è troppa pornografia ad altissimo accesso anche per i bambini che non li aiuta a tenere le cose a posto. Insomma, gli arriva troppa roba che non sanno come processare, cioè come usare con la testa, ok? Questo è un limite, guardate che è un abuso costante a cui noi sottoponiamo i nostri bambini. Ma non pensate a pornografia solo esplicita, cioè un telegiornale delle 8 è abusante per i bambini, perché se per caso viene da chiedervi cosa vuol dire, provate a spiegarglielo, no? È una situazione insopportabile per voi e per loro, quindi, boh, tendenzialmente noi siamo molto disattenti sui segnali, ma se noi siamo normalmente attenti, il loro cervello non gli fa fare la sintesi, ok? Quindi c'è l'amore, ben separato dalla relazione, ben separato dal gioco. Poi a un certo punto il cervello cambia e entriamo nel mondo degli adolescenti. E il cervello dice adesso prova a mettere queste cose insieme. Difficile, eh? Molto difficile. Tant'è che troviamo gente a 40-50 anni che è ancora lì che ci prova con più o meno impegno e non ha ancora realizzato sta faccenda, no? Io mi trovo tanto bene in due situazioni diverse. Una va molto bene per il sesso, una molto bene per l'amore. No, è messa insieme, non ho mai capito come si fa, e intanto procedo. Non sono solo i maschi, eh? C'è sempre anche una femmina che fa un gioco di quel tipo. Vabbè. Ma proviamo adesso a seguire due ragazzi. L'idea è questa, il gioco attraversa tutta la nostra vita. Non smettiamo di giocare, da bambini giochiamo tanto, da grandi abbiamo il lavoro e un po' di incombenze, quindi giochiamo di meno, ma se smettiamo di giocare diventiamo tristi. Poi i giochi sono tanti, ecco, non sono solo i giochi di società, non è solo lo sport, ma se non ritualizziamo e giochiamo certe nostre parti difficili, poi ci collassano dentro, incominciamo a star male, male, male tanto, diventiamo cattivi con la gente, irritabili, insofferenti, eccetera. Quindi l'idea è continuare. Uno dei giochi che piace tanto, lo sapete, notizie che girano, no? È il gioco del sesso, per cui ci sono un mucchio di adulti che continuano a giocare il sesso. L'adolescenza dovrebbe essere considerata più o meno come un grande laboratorio di sperimentazione. E quindi è normale che le cose stiano ancora separate, poi ogni tanto provino a incontrarsi, poi si riseparino, perché non è che uno trova in un giorno la chiave del mondo per mettere tutto insieme, ok? E allora gli adolescenti ogni tanto giocano soltanto, poi sono solo innamorati, poi ogni tanto giocano con le persone di cui si innamorano e poi rischiano di costruire un legame e così via. Proviamo a seguirne due. Renzo e Lucia, due ragazzi che hanno una forte attrazione tra di loro e sono compagni di scuola ma non di classe, istituto tecnico, siamo in città, 1200 studenti, ma loro capitano sempre nell'intervallo intorno alla stessa macchinetta delle merendine e si guardano e si girano intorno. No, non si sono neanche salutati perché sono solo giochi di sguardi, belli, se vi ricordate i giochi di sguardi, quando c'era tempo per guardarsi, no, son belle memorie. E poi un giorno lui prende l'iniziativa, si avvicina a Lucia e la invita. In realtà la storia sarebbe un'altra, lui crede di aver preso l'iniziativa, è Lucia che ha deciso di mandargli dei segnali per cui lui deve prendere l'iniziativa, e lui più o meno fa quello che c'è da fare in quel momento, perché Lucia ha più corpo calloso, sarebbe una via di comunicazione tra emisferi del cervello, mi spiego, e quindi rischia di più a mettere le cose insieme di quanto rischia lui, mi spiego, arriva un po' prima a fare queste cose, va bene, ci arriva benissimo anche Renzo, volendo, vabbè. Detto questo, la invita. Renzo è un romantico, un vero romanticone. E lui ha la Vespa, che già è un segno di romanticismo, e cosa fa? Va in giro per le colline e cerca un posto dove portare la sua ragazza, che non ha ancora. Però intanto già cerca il posto. E sì, e sogna, e vagheggia, e immagina un giorno in cui finalmente farà salire sulla Vespa una ragazza e andrà in un posto meraviglioso. E lui ce l'ha un posto bello, ma bello bello, è un prato lungo, che sale un po', e in cima c'è un ciliegio, e siamo anche in stagione, per cui il ciliegio è fiorito. E allora lei dice, senti, usciamo una volta insieme? E lei non vedeva l'ora, dice, sì, certo, mi vieni a prendere. E lui va a prenderla con la Vespa. Bello, vi ricordate che momenti sono? Lucia sale sulla Vespa, partono e incominciano a far sesso. Voi sapete come si fa in Vespa, no? Un po' ci si abbraccia un ragazzo per stare su, e un altro po' non serve per stare su. E incomincia il gioco del sesso. Ed è un gioco bello sentirsi nella schiena una ragazza che esagera ad abbracciarci perché non è affatto il caso, sarebbe su tranquillamente. Mi spiego? E ci sta dicendo delle cose col suo corpo, no? E intanto anche lei dice, ma guarda, questo qua mi spinge all'indietro, strano, bisognerebbe andare in avanti, no? Ci sono tutte queste cose. Ma è quello il gioco, no? Non immaginiamo roba astratta, teorica, no? Sono proprio queste sensazioni. E beh, stanno. E vanno nel loro pranzo, lei, cantate, questo ragazzo, io avevo preso l'iniziativa, però ho trovato uno in gamba, no? Cioè, ci aveva pensato. E poi questa parte del racconto continuatela voi, pescate dalle vostre memorie, sono belle, sono tenere, a volte sono persino un po' nostalgie, perché nessuno più ci porta in un prato, ma insomma, avendo altro, uno dice, andiamo in camera. Però ogni tanto, invece, non sarebbe da trascurare l'ipotesi. Ok, e lì scoprono che cosa? Scoprono quello che sognavano da tanto tempo, no? Scoprono che cos'è la vicinanza, che cos'è il contatto, cosa sono le carezze, come ci si cerca con le mani, non sanno dire neanche una parola, però è come se scrivessero un racconto molto più ampio, molto più ricco delle parole. E stanno bene. E sono anche due ragazzi che non bruciano il tempo, e quindi, beh, a differenza di altri che potrebbero in quella situazione fare sesso tutto, per esempio anche poi entrare con il pene nella vagina e avere un gioco più intimo ancora, cioè loro dicono, dai, adesso siamo stati bene così. E poi tornano, dopo questo momento bellissimo, questo pomeriggio incantato, e succede una roba un po' strana, che non sanno come salutarsi. Il nome loro se lo sono detto e come, no? sono Renzo e Lucia, però non si sono mica messi insieme, non sono andati a giocare insieme, molto attratti l'uno dall'altro, sono mica fatti delle promesse, no? E succede una cosa che stona come fine di pomeriggio, no? Ed è un ciao ci si vede, esitato, ma non ci sta mica un'altra frase. Vabbè. Ciao ci si vede, domani si vedono dalla macchinetta, insomma, ormai è un attrattore da cui non ci si può staccare. Si vedono, insomma, si raccontano e li conosciamo di nuovo. E man mano le loro carezze osano sempre di più. E cresce il piacere del gioco. Allora, questi due ragazzi sono molto fortunati perché hanno tutti e due una storia molto sensata. Nessun trauma, nessun abuso, molto amore, molta sicurezza, molto riconoscimento. Sono cresciuti, insomma, in due famiglie dove c'era spazio per loro, dove hanno avuto quote di libertà, anche qualche vincolo, un po' di proibizioni, e sono venuti su bene. E quindi sono poco a rischio. Però stanno già rischiando, perché giocare il sesso è pericoloso. Tre rischi. Due, se volete, poi ne parliamo, però ormai tutti lo sanno, anche i banchi qui dentro, quindi gravidanza indesiderata e malattie trasmesse sessualmente. Non so se vale la pena tornare su questo, se non per un paio di cose di metodo che poi magari più avanti usiamo. Sostanzialmente, se voi date informazioni su questi due aspetti, gravidanza indesiderata e malattie trasmesse sessualmente, riducete solo di poco il rischio. Se invece voi drammatizzate attraverso giochi, racconti, giochi di ruolo, eccetera, queste situazioni restano tracce nella memoria più incorporate e aumenta la probabilità di ridurre il rischio. Va bene? E questo è molto ben sperimentato. Quindi, se va uno specialista a parlare di come ci si protegge da una gravidanza indesiderata e da come si protegge da una malattia trasmessa sessualmente, tutti capiscono e pochi apprendono, cioè non prendono e portano dentro, hanno solo capito. E dopo un po' quello che hanno capito non servirà a nulla. Guardatevi se un serpente sta ad ascoltare sta roba. È l'ultima cosa che gli interessa. Certo. Ho un figlio che ha 9 anni e l'altro è adolescente, ha quasi 16 anni. Mi stavo chiedendo se è bene affrontare questo argomento io come mamma o è bene devolverlo al papà. Nel senso che secondo me, essendo maschio, essendo tutti e due maschi, sì, l'altro sì, è ancora piccolo. Siete al limite, ma non fa tanta differenza tra mamma e papà. Quindi sulla delega è più incisivo. Non cambia. Il problema è che state diventando tutti e due inadatti a parlare della sessualità di vostro figlio a vostro figlio. Con vostro figlio potete parlare della sessualità delle persone umane, fare un mucchio di discorsi interessanti, ma sulla sua sempre più prudenza. Appunto. Io ci ho provato, ma la sua risposta è stata: cosa te ne frega te? Vabbè. Risposta sana, non garbata, ma sana. Ok, si può dire meglio, no? Però tutto sommato il concetto è quello ed è giusto che passi. Non li sopportiamo più una certa età i nostri genitori così vicini. È veramente complicato mettere due sessualità quasi adulte, la nostra è adulte, così a contatto. Parliamo di teorie della sessualità, diamo pure indicazioni ed eventualmente raccomandazioni. di solito mettono di cattivo umore, ma intanto abbiamo fatto la nostra parte, mi spiego? Però lontani da loro. Adesso 16 anni è ancora una fase di transizione. Per esempio, una ragazza di 16 anni si sente di parlare con sua mamma un po' di più di un ragazzo di 16 anni, mi spiego? Ma la differenza non è enorme. Man mano altri adulti, per esempio, se voi avete in famiglia la zia strana, di solito c'è una zia strana, no? In ogni famiglia, quella è adatta, no? Perché fa poco parte, più o meno c'è. Vabbè. Perché è riparata da quel rischio lì, ok? Oppure un adulto, un insegnante, un capo scout anziano, insomma, vabbè, qualcheduno, no? Che abbia un'altra posizione, ma non così rischiosa di intrusione dentro la loro sessualità, perché non si regge più. Quindi possiamo fare tutti i discorsi del mondo sul sesso e conviene continuare a farli, ma personalizzarli di meno, se non nella forma del continuare a segnalare che bisogna essere attenti, saggi, prudenti, insomma, tutte le varie cose che escono dalle orecchie, ma insomma, in qualche modo bisogna dire. C'è un terzo problema importante, molto importante, che è poco considerato nei programmi di educazione sessuale. Tutti si focalizzano sui due grandi rischi: rimanere incinte in un'età improbabile per diventare mamme, che non vuol dire fare un bambino, no? Vuol dire tutta un'altra questione, e ammalarsi anche di malattie molto gravi, forse non più così mortali come 20 anni fa, però insomma non raccomando a nessuno né la sieropositività né di ammalarsi in AIDS. Però c'è la terza cosa importante, che sono quelle che io chiamo le ferite nell'anima. Ve lo racconto di nuovo con una storia clinica. Perché clinica? Perché se non li aiutiamo con la prevenzione, poi arrivano con i disturbi. Mi spiego. Le ferite nell'anima espongono a problemi psicopatologici, anche se veri. È una ragazza di 23 anni, quindi apparentemente già molto grande, anche se ancora tanto adolescente, che soffre di un'anoressia molto grave e ne sta morendo. È seguita ovviamente in modo importante dal punto di vista medico. E a un certo punto viene suggerita una psicoterapia, perché solo l'aspetto medico sembra non essere sufficiente. Facciamo questo lavoro. È in capo a un anno e qualche mese, viene dichiarata fuori pericolo, è sempre magrissima, perché è un'anoressia restrittiva, severa, no? Di quella per cui non si mangia e si perde peso. E si fa tanto sport nel caso qualche caloria rimanesse ancora da bruciare. Ok? E dolore, un dolore grande, non tanto perché si è magra, non dà nessun fastidio, anzi, ma perché non si sta bene nel mondo, non si sta bene con se stessi soprattutto. Ma siamo fuori pericolo e pian piano, anzi, si riprende bene, fino a quando vuole saperne di più, vuole sapere perché è successo. In realtà un po' del perché è successo sta dentro il percorso che ha fatto. C'erano delle grandi difficoltà in una famiglia molto complessa, non solo con papà e mamma, ma insomma anche con tutta una rete di continui dolori e molti traumi. Nessun trauma sessuale, non è mai stata abusata, non c'entra proprio nulla, però è un'esperienza continuativamente trauma. Però questa spiegazione, che è importante, non le spiega perché, pur essendo sempre stata in una famiglia così, si sia ammalata di anoressia soltanto 2 anni prima. E io dico, non lo so, me lo chiede, come faccio a rispondere, non faccio mica il mago, faccio solo il psicologo. Però dico, senti, proviamo a stare intorno alla cosa, magari torna qualche memoria. E un giorno, quando nessuno se lo aspettava, perché le memorie tornano così, se le forzate non vengono, se le lasciate tranquille, poi ogni tanto arrivano. Un giorno che nessuno se lo aspettava, dice, aspetti, e le viene in mente una scena molto semplice, peraltro brutta tanto. Io adesso capirete perché è brutta. Lei era andata, aveva appunto 20 anni e mezzo, quasi 21, era andata con una sua amica in un villaggio estivo. E in questo villaggio aveva conosciuto un po' di persone, anche qualche ragazzo che le piaceva, fino a quando l'amica era partita una settimana prima e le aveva lasciato la stanza, quindi lei era in un villaggio con gente simpatica e la stanza tutta persa. Lei aveva già una vita sessuale precedente, attiva, con rapporti sessuali completi, quindi diciamo era esperta di sessualità, sapeva benissimo tutte le questioni, dei rischi, e difatti non ha corso nessun rischio sul suo corpo. Vabbè, insomma, mi dice, ho incontrato un ragazzo proprio bello, il solito strafigo che gira per le storie, e bello, e poi aggiunge, e ci si poteva pure parlare, no? Che è una cosa che lei trovava importante, no? Si poteva parlare, e quindi due volte bello, no? Perché piacevole, simpatico, brillante, e anche da discorsi profondi, no? Affare fatto, se non se lo lascia scappare, e se lo porta in camera e mi racconta, è stato bellissimo, è stata una delle più belle notti di sesso, usa la parola precisa, non d'amore, può amare uno che non conosce, sì, visto un po' di volte, parlato un po', ma l'amore è un'altra roba, è stata la più bella notte di sesso che ricordo la mia vita. E ho fatto un errore fatale, è molto intelligente, come spesso accade in questi tipi di disturbi così complessi, no? C'è molta attenzione. E ci ho fatto un errore, mi sono accorta dopo. Io non lo faccio mai, ma ho dormito nuda accanto a lui. Perché io quando faccio sesso poi chiudo e dico, vabbè, dai ragazzi, adesso a casa, no? E che poi ci vediamo domani, no? Oppure almeno mi vesto. L'ultima cosa che mi passa per la testa è di stare, diciamo, così vulnerabile, ma no, non che uno gli fa del male, ha sempre avuto ragazzi per bene, tra virgolette, cioè brave persone, no? Però lei non resiste di continuare. Quella notte ha dormito nuda, perché è stata una bella notte. La scena clou è molto semplice ed è orrenda. Al mattino lei è lì che sonnecchia nuda nel letto e sente lui che si alza presto, va a farsi la doccia perché è uno sportivo e andrà a fare qualche cosa nel villaggio. Poi esce dalla doccia e lei la descrive come una scena quasi pittorica, dice bellissimo, a torso nudo, con la camicia buttata di traverso, un po' da figo, no? Proprio così. Beh. Mi guarda con tenerezza e mi dice, è stato bellissimo, dimagrisci solo un po', ed esce. E lei dice, io mi sono sentita spaccata in quattro da questa frase, ma è uno che l'ha detto per fare il figo, cioè per uno che così con le donne ci sa fare, non butta lì una cosa, cioè. E lei che era vulnerabile, fragilissima, su questo in più nuda, e dice, questo non dove fossi stata vestita e avrei detto, ma guardati te, no, ma va. E invece è stata massacrata da una frase scema. Peccato detta alla persona sbagliata, nel momento sbagliato della sua vita, e lei dice, io non me ne sono accorta, due mesi dopo ho incominciato a non avere fame. Okay. Non è quello che l'ha fatta ammalare, però ha fatto da detonatore, cioè ha fatto partire il colpo. E lei su questo poi ha incominciato a stare. È solo un esempio di come noi ci mettiamo nelle mani di qualcheduno, senza sapere quanto questo qualcheduno può farci del male, perché non è capace di custodirci con le sue mani. Se mi metto nelle mani e sono fragile, vulnerabile, ho bisogno di mani che si prendono cura di me, no? E invece no, qualche volta mi metto nelle mani di chi mi farà male proprio perché sono debole e vulnerabile. E questo non è chiaro nella testa di tutti i ragazzi, l'adolescenza su questo fa dei danni, poi si riparano per carità, non è che ci si muore di queste cose, però lei è andata a rischio di morire, c'era questo più tutto il resto, ma ha raggiunto il confine di ciò che lei poteva dire a se stessa e sopportare di se stessa quando si poneva in relazione con una. Meno grave di questi episodi ce ne sono miriadi, la sensazione di essersi fatti usare, di essere stati anche un po' maltrattati, sempre così, ma per distrazione, di non essere stati visti, riconosciuti, di non essere stati anche soltanto, cioè, un po' ben voluti, non dico l'amore, no, che è tutta un'altra questione. E questo mentre siamo così esposti, soprattutto se non ci conosciamo bene, come un adolescente non si conosce, ci mette tanto, tanto a rischio. E di questo dovrebbe parlare un po' con i ragazzi, no? Perché noi gli diciamo, guarda che è pericoloso, sempre intendendo due cose, che sono pericolose, niente da obiettare. Poi, la gravidanza non è una malattia, ma è sbagliata in certi momenti della vita e rischia di mettere in crisi un pezzo di vita in modo importante. E ci dimentichiamo di dire, prenditi cura di te, pensa alle mani in cui ti consegni. E E stai attento, stai attenta. Ci viene più da dire stai attenta, ma oggi il numero dei ragazzi maltrattati dalle ragazze sta aumentando in modo vertiginoso, ok? Ci sono ragazze forti, dure, decise, attive, che fanno polpette di questi ragazzi, mi spiego? Un ragazzo quando è lì nudo si sente un imbecille, mi spiego? Non ce la fa davvero, no? Questo una volta capitava molto di meno, no? C'è una cultura, è per fortuna che adesso siamo un po' pari nello star male, però non è sullo star male che facciamo il progresso, no? Adesso che siamo pari sullo star male potremmo essere pari sullo star bene, invece che soltanto una versione negativa, ok? E quindi di questo dobbiamo parlare un po' di più ed essere un po' più attenti. Parlarne come? Mica potete dire vieni qua che ti devo dire una cosa, no? Hanno già capito e scappano via, giusto? Hanno ragione, no? C'è un sistema molto semplice che poi semmai riprenderemo con degli altri esempi, che invece che parlare a loro, che siano bambini, che siano adolescenti, parlarne tra di noi mentre loro sono in casa, presenti. Fare di questo discorso un discorso di famiglia, dove si parla tutte le serie di sesso, se no ci prendono per maniaci, ma si sta nel discorso quando c'è l'occasione. Da commentare ce n'è quanto se ne vuole, insomma, basta accendere la televisione 30 secondi, al telegiornale c'è da commentare. Basta raccontare del vicino di casa, due pettegolezzi eccetera, avete già l'occasione per dire sì, però adesso, a parte il pettegolezzo, cos'è sta cosa? Parlate tra di voi, papà e mamma. Loro ogni tanto ascoltano, scuotono la testa, dicono guarda sti scemi, oppure intervengono e dicono no, cosa state dicendo? Bene, siamo dentro a un discorso con loro. Non gliel'abbiamo detto, non gliel'abbiamo chiesto, ma sono... Oppure fa una domanda, cioè perché, cos'è sta roba? E quindi non stiamo facendo lezioni di sesso a casa, che non ha senso, stiamo mettendo a disposizione un discorso sulla sessualità. Ed è il modo più fisiologico perché loro, quando ne hanno bisogno, se ne servano, senza sentirsi per questo costretti e violenti. Ovvio, qui stiamo per dirci una cosa bella ma difficile, l'educazione sessuale dei nostri figli passa attraverso la consapevolezza della nostra sessualità, che è una sessualità fragile, una sessualità ogni tanto anche ferita, ogni tanto affaticata, ogni tanto il corpo che fa i capricci, ogni tanto è la relazione che stenta un po'. Se gli presentate una cosa fantastica, sono quasi in difficoltà, devono farla anche loro, guardate che un pasticcio, no, replicare genitori fantastici, molto meglio avere gente così, normale, che sta un po' bene, un po' male, ma è testimone del fatto che ci si può provare e ci si può pure riuscire, passando attraverso qualche momento difficile, qualche fatica, eccetera. Voi non raccontate la vostra sessualità, semplicemente la testimoniate, però gliela fate vedere semplicemente per come vi salutate quando tornate a casa, per come vi desiderate, ogni tanto posate uno sguardo di desiderio, ed è legittimo, mica date scandalo, no? O come non vi desiderate più. I figli lo annotano e non si guardano più. Non hanno più voglia questi due e sono spaventati perché il vostro desiderio è una garanzia per loro, una garanzia per avere ancora una famiglia, mi spiego. Ecco, questo è il modo con cui noi possiamo parlare di sesso con loro solo se prima siamo consapevoli della nostra sessualità, che non vuol dire che va bene, vuol dire che è la nostra e che da consapevole in qualche modo la affrontiamo, la viviamo, ne godiamo e qualche volta invece ne soffriamo un po'. Ok, questo è, diciamo, un piccolo trucco per non farci violenza con discorsi inappropriati, goffi e imbarazzati e per metterci a disposizione, sempre con garbo, cioè non dobbiamo esibire nulla, dobbiamo soltanto normalizzare la conversazione. Questi rischi possono essere affrontati e altri adulti sosterranno i nostri figli adolescenti. Quindi quando poi loro devono raccontarsi un po' da noi, è molto anche da un'altra parte. Abbiamo bisogno di comunità, abbiamo bisogno di, adesso si chiama rete, vabbè, chiamiamola rete, insomma, di una comunità attiva, perché noi da soli non bastiamo per far crescere i nostri figli, devono esserci proposte altre, proposte diverse da noi, no? E allora se siamo una comunità attiva, siamo tranquilli che con qualcuno parlerà. E tra l'altro questo qualcuno può anche essere garbato, noi diciamo, ma cosa ti ha detto? Guarda, non ti dico cosa mi ha detto, ti dico stai tranquillo, ne sta parlando e ne sta parlando bene, ok? E ci consola sapere questo dalla zia piuttosto che da quell'allenatore che uno che ci sta poi anche a parlare, eccetera, no? Siamo una comunità di educatori che si rassicurano e si sostengono gli uni con gli altri. E i nostri figli hanno bisogno più di questo che non di papà e mamma sempre schierati, perché man mano diventano un po' meno adatti. Mentre con i bambini, ma ne parleremo a fondo la prossima volta, possiamo parlare di sesso tranquillamente e rispondere a ogni tipo di loro domanda, e la prossima volta le vedremo. Io voglio solo più lanciare il discorso della prossima volta. La prossima volta esploreremo ancora questa mappa e andremo verso il sesso come relazione, il sesso come occasione per fare l'amore, e qui sull'adolescenza ci sarà tanto da dire, perché l'amore è sesso, non è più soltanto l'amore amore e un po' di sesso da provare in una situazione sicura come quella che abbiamo raccontato prima. Ok? Amore e sesso. E da qui partiremo con ipotesi di educazione, cioè quali domande, come affrontarle, come rispondere, con quali contenuti, e ci muoveremo nella direzione bambini e poi adolescenti. Volevo solo mettere il link, l'aggancio con il discorso della prossima volta. Prendiamo Renzo e Lucia. Renzo e Lucia adesso sono due che giocano, e giocano bene, e giocano sicuro. Siamo tranquilli quando escono. Potremmo la prossima volta, adesso no perché alle 11 non si può fare un discorso così, cercare anche di capire se le nostre proposte etiche sull'etica della sessualità sono prese in considerazione piuttosto che no. Ma ci verrà meglio farlo quando avremo un quadro più completo, perché fare l'etica dei giochi è molto complicato, perché diventa un'etica molto controllante e normativa. Se invece facciamo un discorso più ampio, mettendo un po' d'amore, un po' di relazione, forse ci verrà meglio. Lo so, teniamolo presente. Due ragazzi di 17 anni che fanno sesso in un prato sono molto romantici, forse ci fanno morire di invidia, però abbiamo anche un po' di problemi nel dire ma stanno facendo bene, ma stanno facendo una cosa buona, stanno facendo una cosa legittima, eccetera. Riserviamoci queste domande, non adesso perché poi andiamo tutti a casa di cattivo umore. Turbati, via, turbati. Teniamola lì. Vediamo soltanto un passaggio che fanno loro che è molto tenero e poi chiudiamo noi. Un giorno succede che questo gioco non basta più. Non è che ci fanno su un ragionamento, glielo dice la loro natura, cioè il loro corpo, il loro cervello. Il loro cervello gli dice, bello sto gioco, ma non è sufficiente. Allora dicono, perché se giochiamo così bene, stiamo così bene? No, dovete cercare di mettervi insieme, dovete costruire un legame. Legame fa paura, eh? Però il legame è molto ambivalente. Se voi prendete una classe e gli dite cosa sentite quando dico legame, un pezzo di classe dice che bello, calore, vicinanza, affetto, e un altro dice no, che brutto, costrizione, perdita di libertà, paura, angoscia, soffocamento, stessa parola. Ogni storia la prende e la legge a modo suo, e dobbiamo essere rispettosi di questo, tra l'altro. Però la natura, o chi l'ha creata, attraverso questo modo, però non infondendo, attraverso lo spirito, ma insomma basta l'ipofisi, che è un bel gioiello, costruito bene, no? Ci fa venire sta voglia di legame. E questa voglia di legame non è dichiarata, ci si inciampa. Renzo e Lucia ci inciampano con una parola, con una frase. Lucia dice, Renzo, è già un po' che non mi porti più sotto il nostro ciliegio. E lui dice, no, ma certo, dai, torniamo. Lui dice, che hanno detto? E hanno detto nostro ciliegio. La parola nostro gli sta scombinando la vita. Perché non ci sono più uno e un'altra che vanno a giocare. Sta nascendo un noi. Questo noi è un soggetto nuovo. Mi spiego, che è fatto sempre di due persone ben distinte, ma che non parlano più al singolare quando combinano di andare a giocare, parlano con un plurale. E questo noi è un modo nuovo dello stare insieme. E scoprono che il noi chiede una cosa, di tornare. Se c'è un noi, da quel noi si torna. E allora c'è anche un modo per parlare del legame che è meno duro, meno difficile. I legami non ci devono legare, I legami ci devono suggerire di tornare. Un legame è in movimento, si esce di casa al mattino, si va via. Si va via e si rischia il mondo. E poi a sera diciamo, che faccio? C'è uno che mi aspetta. Forse no, vado ad aspettarlo, tornerà. Ecco, questo è il legame. Ed è potentissimo, ed è viscerale, non è un ragionamento. Vi ricordate Ulisse? Tutta quella storia di Ulisse è uno che torna. E per tornare deve superare delle prove. C'è una, Calizzo, che gli promette l'immortalità, se non torna. E lui è tentato, insomma, vuol dire passare per sempre vacanze favolose con una ragazza super, no? In un'isola tropicale, del mare Egeo, via. E, mica male. E lui dice, no, io sono un umano e torno. Mi spiego perché si stava snaturando. Questo per dire quanto è forte il bisogno di tornare alla sua isola, alla sua terra, ma alla fine da lei, a incontrarla nel suo corpo. Ecco, questo tornare è un modo semplice per parlare dei legami, ma è un modo in movimento. Ricordate che abbiamo detto la sessualità ferma fa star male. La sessualità in movimento invece forse ci porta buone notizie. Se ci leghiamo siamo sempre in movimento e anche da soli in movimento, ma abbiamo voglia di tornare. E quando torniamo ci sono un bel po' di rischi. E di questi rischi proviamo a parlare la prossima volta. Bene, grazie di questo segno che voglio che sia soprattutto un segno di condivisione, no? Con il corpo ci siamo detti che possiamo stare insieme, no? E quindi la prossima volta rischiamo un altro po'. Se volete qualche minuto ce l'abbiamo anche per parlarne insieme, e se invece siete stanchi la prossima volta ci prendiamo spazi per discutere, per raccontare, per confrontarci. Torniamo a casa, va bene. No, c'era una domanda? No, se c'è la domanda usiamo quello, così tutti la sentono. Torniamo a casa. Un attimo. Che penso che sia più adatta forse ai prossimi incontri, perché è una domanda grande, ma ce l'ho nel cuore quindi la butto lì. Quando e in che età affrontare il discorso dell'omosessualità con i propri figli? Visto che si parla di telegiornali, di immagini che comunque arrivano anche attraverso i cartoni animati. Se la prossima volta pensi di tornare, ci ripeti. Ecco, allora non rispondo. Il trucco c'è. Allora, io ne parlerò, però se scivolassimo su altri discorsi ce lo ricordi. C'è un problema di quando, ma c'è anche un problema di come, e c'è il problema più drammatico di tutti, di che cosa? Noi non sappiamo quasi nulla dell'omosessualità, quasi nulla di scientifico, e quindi dobbiamo costruire un discorso che abbia senso, purtroppo non appoggiato a grandi conoscenze scientifiche, però lo facciamo senza. Buona serata.